Questo è un podcast di Rivista Militare, Delenda Cartago, di Umberto Broccoli. Ceterum censeo Carthaginem esse Delendam. È il 157 a.C. e Marco Porcio Catone fa parte di un gruppo di delegati spediti a Cartagine per trovare una soluzione alla rivalità storica con Roma. Catone si avvicina agli 80 anni, sta chiudendo una carriera importante dopo essere cresciuto in una famiglia plebea dall'educazione austera. Catone a Cartagine si rende conto di quanto sia ancora pericolosa la città punica e da quel momento ogni suo discorso al Senato si chiude con Ceterum censeo Carthaginem esse Delendam. Per il resto ritengo che Cartagine debba essere distrutta. Catone è in pieno affaccendamento iterativo, certamente dovuto all'età, ragion per cui la distruzione di Cartagine diventa una fissazione prima di essere un problema da risolvere. Ripete ossessivamente Ceterum censeo Carthaginem esse Delendam e per essere più convincente si fa portare un cesto di fichi provenienti proprio dalla città nordafricana. I fichi sono frutti delicati, come tali destinati a marcire se non mangiati entro poco tempo. Catone in Senato ripete il suo mantra mostrando quei fichi ai senatori, quasi a significare «i cartaginesi, come i fichi, possono arrivare da noi in poco tempo. Regolatevi. Per il resto ritengo che Cartagine debba essere distrutta». «Gutta cavat lapidem». La goccia scava la pietra e la goccia Catone scava la pietra Senato, convincendosi su Carthaginem esse Delendam. Non è necessario raccontare le guerre puniche andate avanti per oltre un secolo. Sono nel mito con gli elefanti di Annibale, i rostri di Caio Duilio, le stragi dei romani da parte dei cartaginesi e viceversa. Il tutto accompagnato da una propaganda raccontata e arrivata fino dentro i nostri sussidiari. Propaganda secondo la quale i cartaginesi sono perfidi, cattivi, mangiatori di bambini, contrapposti ai romani, buoni, eroici, giovani e belli. Perché gli eroi sono tutti giovani e belli, per dirla con Francesco Guccini. La storia non è manichea, lo è sempre quando è scritta dai vincitori. Le guerre puniche iniziano nel 264 e si chiudono nel 146 a.C. con la distruzione integrale di Cartagine. Carchedon per i greci, Cartago per i romani, Cortadach è la città nuova. Nuova perché, secondo il mito, nasce dalla fuga di Didone da Tiro per fondare la sua città dopo l'assassinio di Sicheo, suo marito, ucciso da Pigmalione, re di Tiro e fratello di Didone. Al di là di miti e leggende, la città nuova diventa un emporio fenicio molto importante, con commerci sviluppati in tutto il Mediterraneo. È portatrice di una civiltà riconosciuta allora e riconoscibile oggi dagli archeologi. Quindi statue, templi, città organizzate, navi e soprattutto uomini in grado di mandare avanti tutto questo. Per secoli si è immaginato il cartaginese retrogrado e selvaggio con un'immagine figlia della propaganda romana del tempo di Catone il censore. In realtà Cartagine è una città di avanguardia e su questa città di avanguardia si scatena la furia di Roma, culla del diritto e della civiltà occidentale. Appiano è uno storico greco di Alessandria, vivo al tempo di Tacito, anche se un po' più giovane. In 24 libri scrive Romaeca, una storia romana dalle origini al tempo di Traiano. Cartagine deve la sua potenza all'abilità di andare per mare, per cui è essenziale il porto. E questo è il porto di Cartagine secondo Appiano. I porti di Cartagine erano disposti in modo che le navi potevano passare dall'uno nell'altro. Per chi veniva dal mare, l'ingresso era rappresentato da un'apertura larga a 70 piedi che si poteva chiudere con catene di ferro. Il primo porto, riservato alle navi da commercio, era provvisto di numerosi e svariati ancoraggi. In mezzo al porto interno sorgeva un'isoletta. Isola e porto erano fiancheggiati da grandi banchine, lungo le quali correvano delle arcate capaci di contenere 220 navi. Al di sopra delle arcate erano i magazzini degli attrezzi. Sull'isola era costruita per l'ammiraglio una palazzina dalla quale venivano dati i segnali di tromba e da cui l'ammiraglio esercitava la sorveglianza del porto. L'isola era situata di faccia all'ingresso del porto, così che l'ammiraglio vedeva tutto ciò che avveniva sul mare, mentre coloro che venivano dal largo non potevano distinguere bene l'interno del porto. La descrizione, evidentemente, lascia stupefatto il visitatore, perché ci si trova di fronte ad una struttura pensata, progettata, ben costruita, nulla da invidiare ai porti romani. Anzi, è possibile immaginare i porti del Mediterraneo ispirarsi a quello di Cartagine, considerando il suo primato fra le città marinare. Ebbene, tutto questo deve essere distrutto, perché ritenuto barbaro dalla civiltà romana dominante. E così sarà, perché Roma vittoriosa ormai su tutto il mondo riteneva di non poter vivere tranquilla se rimanevano in qualche luogo le tracce dell'esistenza di Cartagine. Tanto è persistente, anche al di là del timore, l'odio che nasce nei conflitti e che non dilegua neppure davanti al nemico vinto. L'oggetto dell'odio non cessa di essere tale finché non cessa di esistere. Parola di Velleio Patercolo, scritta più o meno nel 30 d.C. L'oggetto dell'odio non cessa di essere tale finché non cessa di esistere. Si specchia in «Fanno il deserto e lo chiamano pace», conseguenza diretta dell'odio portato alle conseguenze estreme. ...146 a.C., epilogo di Cartagine dopo 3 anni di assedio. Parola di Appiano. 6 giorni e 6 notti ebbe a durare l'impresa. Molti dei legionari si ritirarono esausti dalla mischia, sostituiti da altri riposati. Scipione L'Emiliano presiedeva al tutto, fattosi insensibile alla pietà degli altri come alla fatica, alla fame, al sonno, al pericolo sui propri. Fu pattuita la resa. Una massa di 50.000 uomini e donne raccolto nella rocca ebbe il permesso di uscire per una stretta porta attraverso i baluardi. A circa 900 disertori del campo romano che avevano seguito Asdrubale, Scipione rifiutò il perdono. Si rinchiusero nel tempio di Esculapio che sorgeva nella rocca, splendido in cima a una scala di 60 gradini, e tentarono la difesa della disperazione. Ma poi affranti incendiarono il tempio ed arsero in esso. Dopodiché Cartagine visse la sua ultima ora. Era durata 700 anni. Non ne restò pietra su pietra. Dopodiché, Cartagine visse la sua ultima ora. Era durata 700 anni. Non ne restò pietra su pietra. Come siamo strani. Tutto questo sembra racconto, epica, sogno, fantasia. Chiuso nei libri di storia, da rispolverare al momento delle interrogazioni. Sembra un film costruito sulla distruzione. Un film nel quale le comparse aprono il cestino della pausa pranzo una volta girata l'ultima scena. Ma non è così. Le pagine della storia sono scritte nell'inchiostro di colore rosso e l'uomo ha saputo come riempire le biblioteche del mondo. L'ultima ora di Cartagine corrisponde all'ultima ora di Dresda, di Coventry, di Hiroshima e Nagasaki. Quell'ora scocca sempre sul quadrante della storia per riprendere uno slogan caro a chi si è inserito nella conta dei minuti finali. E non c'è nessuno in grado di far andare indietro le lancette. In quei casi l'uomo non è mai in ritardo. È sempre puntuale, preciso, non si fa aspettare. Quando è stato il momento di far cadere pietra su pietra di chiese, di templi, di palazzi, di case e castelli. Quando la distruzione non ha risparmiato nemmeno i luoghi sacri e si è accanita portando l'inferno nei silenzi dei monasteri. Né tantomeno l'uomo del tempo e del quadrante della storia risparmia i luoghi d'arte. Anzi, brucia i libri delle biblioteche, si accanisce sulle statue antiche, polverizza ogni cosa facendo il deserto per poi chiamarlo pace. L'uomo del tempo e del quadrante della storia è là, con la sua ora, con i suoi minuti, pronto a ridurre in un secondo il lavoro di secoli e millenni. Un pulsante premuto, un ordine dato, e via. Via tutto. E via soprattutto la gente. Poi si piange. Dopo si contano le macerie, materiali e umane. Dopo il tempo pare si fermi. Resta fumo, silenzio, orrore. In quell'ora l'uomo ha rinunciato a essere uomo. In quella sequenza di minuti e di secondi è possibile ridurre tutto a zero per poi discutere sul male del mondo. È diventata abitudine. Vedere la distruzione è come leggere le pagine dell'Iliade o come guardare un film di guerra. Lo si fa dall'esterno, da fuori. Si guarda come a teatro, come se la sofferenza fosse sempre una rappresentazione in attesa dei titoli di coda. Forse la lettura della storia dovrebbe aiutare l'uomo a riflettere su una circostanza banale e molto televisiva. Nei film o negli sceneggiati, la parola fine precede i titoli di coda. Nella vita potrebbe non essere così. E una volta mandati i titoli di coda, dopo aver visto catastrofi reali e non rappresentate, resta solo quella parola. Una parola che non prevede altro. Nella vita, infatti, non è possibile ricominciare quando appare la parola fine. Anche per la distruzione di Cartagine e delle sue opere d'arte arrivano puntuali le lacrime. Polibio è uno scrittore greco e vive tra il 203 e il 120 avanti Cristo ed è al seguito di Scipione l'Emiliano. Probabilmente vede di persona la fine di Cartagine e descrive le lacrime di Scipione, lacrime postume e vagamente ipocrite. Scipione è tra i protagonisti della distruzione della città e delle sue opere. Parola di Polibio. Scipione, vedendo ormai ridotta all'estrema rovina la città di Cartagine, pianse apertamente, si dice per i nemici. A lungo egli rimase meditabondo, considerando come la sorte di città, popoli, domini, cambi come il destino degli uomini. Ciò era accaduto ad Ilio, città una volta potente. Era accaduto ai regni degli Assiri, dei Medi e dei Persiani, che erano stati dei grandissimi ai loro tempi, e recentemente al regno Macedone. Poi esclamò: «Verrà un giorno che il sacro Iliaco Muro e Priamo e tutta la sua gente cada». Polibio gli chiese che cosa egli volesse significare con queste parole. E allora Scipione, senza reticenza, nominò la patria, per la quale temeva considerando la sorte degli uomini. Ciò riferisce Polibio, avendolo udito con le sue orecchie. Scipione piange sulle rovine, pensando a come la storia si riproponga uguale, avendo solamente l'accortezza di cambiare protagonisti e scenari. Polibio, uomo greco, inizialmente giudica barbari i romani, per poi invaghirsene e spostare sui cartaginesi il concetto di barbaro. Perché anche questa è una costante della storia. I barbari sono sempre gli altri, senza considerare come e quanto anche i civilizzati da sempre fanno il deserto e lo chiamano pace. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.